pronto, Caserta è pronto, Roscio, è lì a Ponte di Rosello, che eri tu quello che piccone. Ho un altro ricordo, è pronto, Roscio drogato.